in primo piano. Giovedì 7 luglio è ancora la manovra certamente a conquistare le prime pagine dei giornali. Vediamo uno sguardo allora al Sole 24 Ore, che oggi dedica ben 15 pagine alla manovra finanziaria speciali. Due tempi per correggere i conti, questo è il titolo di apertura. E poi il Corriere della Sera, pensioni, norme meno severe. Per Repubblica, Napolitano, la manovra non basta. La Stampa, la manovra sale a 68 miliardi. Il Giornale continua la campagna dove buttano i soldi, il titolo della terza puntata è Paghiamo pure i calciatori, mentre Libero si concentra sulla questione annosa delle province, il titolo è Aboliamoli i parassiti delle province. Pensioni, il governo apre, questo è il titolo del Messaggero. Fratelli di tagli invece è il titolo dell'Unità, comuni e regioni contro la stangata, così si chiude. Sulla manovra apre anche il Manifesto, colpo grosso, questo è il titolo con la foto di Tremonti, mentre il Fatto Quotidiano si concentra oggi sugli scandali, delle inchieste che coinvolgono il centrosinistra. Rilancia la questione morale di berlingueriana memoria, Berlinguer chi era costui, questione morale addio. 30 anni fa il segretario del PC denunciò la corruzione nelle alte sfere della politica, un leader archiviato troppo presto e le tangenti ora assediano la sinistra. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, è la puntata 2, già ieri ne avevamo parlato di quello che sta letteralmente terremotando una parte dell'impero mediatico di Rupert Murdoch in Gran Bretagna, vale a dire l'inchiesta sul tabloid News of the World, inchiesta sul tabloid di Murdoch, titolo oggi così il Sole 24 Ore, pagina 18 con Nicole degli Innocenti, ma anche il Corriere vi dedica una pagina, la vicenda si sta allargando a macchia d'olio, spiate anche le vittime degli attacchi al metro. Questa è la nuova accusa, dopo l'accusa di avere da parte del giornale tabloid News of the World ed essere penetrato nel cellulare di una ragazza scomparsa, ora l'accusa anche di avere spiato alcune vittime degli attacchi di Londra del 2005, cioè da parte di alcuni giornalisti del News of the World di essere entrati infischiandosi della privacy, della pietà per i morti, della pietà per le loro famiglie, con opere di hackeraggio entrare nei telefonini delle vittime per cercare di cogliere che cosa? Dei dettagli, per ricostruire poi in articoli giornalistici magari strazianti, di colore, in cui si raccontavano i profili di queste vittime. Ovviamente c'è questa Rebecca, la direttrice di News of the World, all'epoca dei fatti Rebecca Wade, sposata Brooks, nata nel 1968, Rebecca la Rossa, oggi il Corriere e anche il Sole, ne pubblica anche una pagina, ma anche, pensate, La Stampa fa due pagine, 12 e 13, intercettazioni bufera sull'impero di Murdoch. C'è anche un profilo di Fabio Cavalera sul Corriere di Rebecca la Rossa, la perfida regina del tabloid, così è definita, una che è entrata come segretaria del direttore News of the World e poi con quelle sue doti di scalatrice, arrampicatrice di alta classe con un unico difettuccio, quello dello spionaggio. Già quando era nel 94 a News of the World fu incaricata di rubare letteralmente le anticipazioni della biografia del principe Carlo che il Sunday Times stava per pubblicare. Lei si travestì da addetta alle pulizie entrando nella redazione del Sunday Times, nascondendosi nei bagni, carpendo i titoli, gli articoli sul principe Carlo per poi passarli al suo capo. Una che, scrive Fabio Cavalera, si è sempre sporcata le mani con ogni mezzo pur di accontentare il superiore di turno e oggi è la numero due dopo Rupert Murdoch stesso nell'impero mediatico del magnate australiano. E vabbè, insomma, questa vicenda è davvero sempre più allargata. Poi la seconda segnalazione la voglio dare da Libero in prima pagina. Domenica si sposa il ministro Brunetta con Titti. Ebbene, precari all'assalto di Brunetta. Pare che sfruttando soprattutto il social Facebook network c'è questo appello da parte di alcuni siti: gli rovineremo le nozze. Nino Sunseri racconta in prima pagina di Libero di come assedio al matrimonio di Brunetta, un simpatico modo per passare il sabato, sia uno degli appelli che gira su internet. Ovviamente ce l'hanno soprattutto con Brunetta chi? Quelli definiti i fannulloni, l'Italia peggiore, i precari, eccetera. Insomma, Libero dice: Titti e Renato si preparino, perché stando almeno a quanto è qualche appello diffuso su internet, gira questo: il precari all'assalto di Brunetta, gli rovineremo domenica le nozze. E allora alle 7:34 minuti, eccoci qua a parlare soprattutto di manovra, visto che sui giornali questo è il tema che ancora ricorre. C'è da dire che ieri c'è stata la presentazione del ministro Tremonti, la firma del presidente della Repubblica Napolitano, dunque la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e tra l'altro scrivono tutti i giornali, leggo dal Sole 24 Ore in prima pagina, questa manovra che è stata presentata non senza una sorpresa dell'ultima ora, no? L'ha detto Tremonti in una conferenza stampa. Il decreto legge vale a regime 25 miliardi e dunque la correzione di 40 miliardi necessaria a raggiungere il pareggio di bilancio del 2014 sarà possibile solo grazie a un ulteriore 15 miliardi da recuperare, come arriveranno dalla delega fiscale assistenziale. Se si dovesse arenare però quella delega fiscale, è prevista una clausola di salvaguardia che prevede tagli per 15 miliardi su tutte le forme di agevolazione fiscale. Questo, e poi i dettagli su questo, dalla delega fiscale un terzo della correzione, li trovate con Isabella Bufacchi a pagina 3 del Sole, con Tremonti. Ha detto appunto: non c'è solo il decreto legge per il pareggio di bilancio del 2014, mancano questi 15 miliardi che vanno recuperati dalla delega fiscale assistenziale. Ad oggi, scrive Dino Pesola, infatti sono garantiti formalmente in manovra 25,3 miliardi di euro. E poi ci sono, come detto, i dettagli, tutti i dettagli. Il Sole dedica 15 pagine alla manovra. In particolare voglio segnalare una pagina dedicata alle nuove regole per le pensioni, tutto sui requisiti per la vecchiaia, la stretta alle rivalutazioni, le norme per i professionisti. Le 19 parole chiave da capire sono pubblicate a pagina 6. Sulle donne, sulla detassazione, la decontribuzione, le finestre, l'invalidità civile, la malattia, la rivalutazione, questo tema sul quale si è molto dibattuto. Tra l'altro il ministro del Lavoro Sacconi ha detto che comunque ci sarà da discutere, ci potranno essere delle modifiche in Parlamento, perché adesso il decreto legge ovviamente deve iniziare l'iter parlamentare. Anche il Corriere dedica pagina 3 su questo, un tema che riguarda milioni di italiani: le pensioni, aumenti bloccati soltanto oltre quota 2.300 euro. Per esempio, per quel che riguarda le rivalutazioni, si prevede già un emendamento in Parlamento per rivedere questo taglio alle rivalutazioni che era stato previsto. Via il tetto alla rivalutazione delle pensioni più basse, così si sta orientando già il Parlamento. Appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale spunta l'ipotesi di far saltare tutti i tagli sugli assegni previdenziali più bassi, quelli compresi cioè tra 3 e 5 volte il minimo, tra 1.402 e 2.337 euro, scaricando dunque tutto l'onere, oltre un miliardo di euro tra il 2012 e il 2013, sulle pensioni più alte. Su questo, dopo le polemiche sulla mancata idea delle rivalutazioni delle pensioni, pare che si stia orientando in questo senso. Come ci sono ancora paginate e pagine sulla questione della tassa sul deposito titoli. Tutti i costi del conto titoli li trovate a pagina 10 del Sole. Maximilian Cellino e Vito Lops raccontano tutti i calcoli. Non è ancora facile farli, ovviamente, però su un portafoglio da 50.000 euro ci sarà un onere aggiuntivo dello 0,9%. Questo, per esempio, come valore medio identificato dal Sole 24 Ore, può aiutare già a orientarsi. Ma ci sono poi tutti i possibili calcoli fatti dal Sole in base al deposito titoli che avete, a quanti soldi avete in titoli e quanto costerà la nuova imposta di bollo. Tra l'altro Libero su questo, non è la prima volta che con Franco Bechis, il suo direttore, si critica questa decisione. Beh, ma c'è anche una novità. Franco Bechis oggi la mette così: attenzione, bot, la stangata in realtà è già partita. Beh, questa, se è così, è davvero incredibile. La tassa è retroattiva E dunque, secondo Libero, è scattato dal 1 luglio l'aumento a 120 euro dell'imposta di bollo su depositi titoli italiani di tutti gli italiani. La sorpresa arriva dalla relazione tecnica della legge finanziaria firmata dal presidente Napolitano. Da ora fino alla fine del 2012 quell'imposta di bollo salirà quindi di 115,8 euro dagli attuali 34, euro. L'anno successivo ci sarà un incremento ulteriore di 30 euro, ma la novità è questa. Che appunto questa tassa, che riguarderà secondo la Ragioneria Generale dello Stato 9,2 milioni di risparmiatori, è retroattiva. Dopo il danno, la beffa, il super aumento dell'imposta di bollo sui dossier titoli è retroattiva ed è scattata già dal 1 di luglio. Protestano anche gli enti locali, regioni e comuni paralizzati, così titola il manifesto a pagina 3. Ancora pesanti tagli, la manovra non assicura il governo del territorio, ieri ha detto il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, cioè il presidente dell'Emilia Romagna. E beh, questo per quel che riguarda la manovra. Poi non l'ho tenuto in disparte, ma l'ho tenuto per ultimo, la questione di tutte le polemiche retroscena. Ieri nel presentare la manovra c'è stata questa frase del ministro Tremonti che ha risposto alla domanda, quella sulla norma cosiddetta salva Fininvest che è spuntata e poi è stata tolta nel giro di 24 ore. A una domanda precisa Tremonti ha detto, non volendo rispondere al giornalista, guardi, le diamo il numero di telefono del dottor Letta, risponderà lui. Eccolo qui. Il super ministro è Gianni Letta. Mondadori? Chiedete a lui. A pagina 6 del Corriere, secondo il Corriere, ha innestato una polemica con Francesco Verderami, che è uno dei notisti politici retroscenisti più informati, che racconta di come il sottosegretario Letta sia rimasto allibito dell'uscita di Tremonti. Posso darvi il suo telefonino, così ha detto Tremonti al giornalista, l'abbiamo sentito anche il GR24. Ebbene, il braccio destro di Berlusconi, Gianni Letta, è rimasto allibito, si usa questo aggettivo per definire l'affondo di Tremonti. Berlusconi, racconta Verderami a pagina 8 del Corriere, a dir poco irritato per le manovre di Tremonti, non fa nulla per nasconderlo, mentre Letta non è affatto sorpreso per quanto sta accadendo. Ma insomma, diciamo che la tensione, secondo quello che sono in retroscena, ma un po' ovunque, di tutti i giornali, quindi qualcosa avranno di ragione, la tensione tra Berlusconi e Tremonti davvero non si smussa. Vediamo, per esempio, i più duri sono il Secolo XIX con Giovanni Palombo, il suo retroscena. Giulio si sfoga, Silvio ci porta al suicidio. E c'è questa metafora che gli amici di Tremonti avrebbero colto nei giorni scorsi, viene riportata dal Secolo XIX, ma l'ho letta anche su un altro giornale, di cui ora mi sfugge, è la stessa metafora. Giulio Tremonti direbbe di Berlusconi, sta chiedendo ai suoi di suicidarsi come l'imperatore giapponese, ma io mi tengo fuori, non posso certo seguirlo, ho la mia credibilità da difendere. E ancora Tremonti avrebbe detto, mi devono cacciare, io non me ne vado, sono a posto con la coscienza, la barca ormai è alla deriva, ma non posso certamente affondare con lui. E anche per Repubblica, nel PDL scatta l'assalto a Giulio, se non taglia le tasse ci porta a picco, c'è l'ira di Berlusconi, secondo Carmelo Lopapa. Ma anche su Libero, guardate, a pagina 7, Barbara Romano, il cavaliere è stufo. Ho voglia di mollare. Per la prima volta, per la verità, anche questa non è la prima volta che viene attribuita questa frase a Berlusconi. Avete deciso di mollarmi? Sono io che mollo voi. Questa è la tentazione. Libero dice, per la prima volta dopo 17 anni di vita politica, Berlusconi è assalito dalla voglia di salutare il pubblico e uscire di scena. Avrebbe detto anche questa frase, che i comunisti vogliano vedermi morto, ci sta. Ma se sono i miei ministri a volermi rovinare, mi cascano le braccia. E poi c'è per esempio ancora di tensione. Vedete per esempio il ministro Galan, uno che già col ministro Tremonti non era stato tenero in passato, fa un'intervista alla Stampa, pagina 3, a Paolo Festuccia. Tremonti ha fatto una manovra alla Visco. Cosa c'è di peggio se non paragonare Tremonti, immagino per Giulio Tremonti, all'ex ministro delle finanze dell'era Prodi, colui che l'ha definito Dracula. E per la propensione, secondo alcuni giornali di centrodestra, di succhiare il sangue, no? Nel senso, mettere le mani nelle tasche degli italiani. Per quanto riguarda il mio ministero, non posso lamentarmi, dice Galan, ministro della cultura. Tremonti è bravo, capace, stimato, ma è ordinario e in queste situazioni gli uomini ordinari portano i governi sotto il 20%. Insomma, ci voleva una rivoluzione, ma non è andata così. Nel nostro programma si promette di tagliare i privilegi, invece ecco una manovra che aumentava il bollo alle auto. Penso che Visco non avrebbe fatto una manovra tanto diversa da questa. E questo il ministro Galan. Poi c'è tutta la questione dei tagli ai costi della politica, mancati ancora una volta, anche se Tremonti ha detto più di così non si poteva fare. C'è tutta la polemica legata alle province. Noi avremo il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, alle 8:20, che ha presentato questa proposta di legge sulla quale il PD si è astenuto. Le province restano, l'opposizione si sfascia, titola il giornale. Rosy Bindi, intervistata dall'Unità, fa un'intervista di 2 pagine. Il presidente del Partito Democratico dice sulla questione del non appoggio alla norma dell'Italia dei Valori dell'abolizione delle province: era una norma propaganda, non serviva l'intervento che dobbiamo fare. Aveva senso votare una norma che non avrebbe cambiato nulla? Noi non possiamo inseguire la demagogia. Sta di fatto che sulla stessa Unità c'è la vignetta di Staino, tradizionale, a pagina 3, con Bobo e sua figlia. La figlia che dice a Bobo: come non esci? Non mi accompagni alla piscina? E Bobo: e se qualcuno mi chiede perché ci siamo astenuti sulle province, che rispondo? E tra l'altro, a proposito delle province, oggi Libero mette in prima pagina questo titolo: aboliamoli, i parassiti delle province. Tra l'altro c'è una caricatura, e mi pare di riconoscere, sembra ispirarsi a Guido Podestà, insomma, presidente della provincia di Milano, riprodotto in decine e decine di poltrone, a simboleggiare lui, come dire, come provincia di Milano, da cancellare come tutte. A chiuderle ci guadagniamo 4,5 miliardi all'anno. E tra l'altro Belpietro sfida proprio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori: faccia una proposta di legge popolare, ci vogliono 50.000 firme, noi la appoggeremo, scrive Belpietro in terza pagina. E poi intanto invita i lettori a sfogarsi sulla questione province. Beh, sulla politica voglio registrare la prima pagina del Fatto Quotidiano, come detto, si concentra sulle inchieste e che coinvolgono la politica di sinistra. Il titolo è questo: Berlinguer, chi era costui? Questione morale, addio. 30 anni fa il lancio della questione, la famosa questione morale, 28 luglio 1981, l'intervista di Enrico Berlinguer rilasciata a Eugenio Scalfari, nella quale Berlinguer parlava di partiti come macchine di potere, di clientela. Ebbene, il Fatto Quotidiano dice, a distanza di 30 anni, fine della questione morale davvero abbandonata, c'è tutto un racconto delle varie inchieste, a cominciare dal famoso Fassino, abbiamo una banca, che non ha rilievo penale per la verità, ma insomma il Fatto la mette a pagina 3. E poi la questione di donnine facili, mazzette sanitarie, vita spericolata in quel di Bari. E poi le inchieste in Calabria, fino alle inchieste, l'ultima che riguarda l'arresto del manager dell'ENAC Pronzato, che era anche un responsabile, diciamo, all'interno del Partito Democratico, e l'inchiesta che appunto, si legge nei giornali, coinvolgerebbe anche con tangenti, coinvolgerebbe esponenti del centro-sinistra. Di politica registro anche che i responsabili hanno cambiato nome. Ora bisognerà chiamarli non più responsabili, ma il gruppo dei responsabili si chiamerà così: Popolo e Territorio. Cari italiani, siete stati informati, è ufficiale. Non più responsabili, ma Popolo e Territorio. Per quel che riguarda l'inchiesta invece Ruby, che coinvolge il Presidente del Consiglio, tutti i giornali riportano questa notizia, notizia importante, vale a dire che la Corte Costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione chiesto, e dunque la Corte Costituzionale ha dato un primo via libera al conflitto di attribuzione sul caso Ruby, che è stato sollevato dalla Camera nei confronti della Procura di Milano. Ora saranno i giudici di Milano a dover decidere se sospendere, in attesa del pronunciamento sull'eventuale competenza, se spetta al Tribunale di Milano, se spetta invece al Tribunale dei Ministri. I giudici dovranno, nel frattempo di attendere questa decisione, potranno decidere se interrompere o meno il procedimento. La notizia che però viene stata rilanciata, credo, ieri dal TG di Mentana e viene ora messa anche dal Fatto Quotidiano e dal Manifesto è questo. Insomma, sebbene la procura smentisca dicendo non ne sappiamo nulla, sebbene gli avvocati anche di Berlusconi dicono non ne sappiamo nulla, ci sarebbe, secondo una fonte che arriva dal Marocco, secondo alcuni siti online marocchini, una 21enne attrice pornografica, Mouna Rajli, marocchina, conosciuta come Aurora Barzatta, che avrebbe denunciato il premier Berlusconi per stupro, addirittura avrebbe abusato di lei nel 2008 quando era minorenne. Una denuncia che, per la verità, anche scrive il Fatto, se c'è stata, non è arrivata in Italia. Il procuratore capo di Milano infatti dice non abbiamo ricevuto alcuna denuncia. Ma certo, questo non impedisce al Fatto Quotidiano a mettere un'intera pagina il tallone marocchino di Berlusconi. Una ragazza lo denuncia per stupro. Voglio andare alle segnalazioni conclusive. Ma intanto, vabbè, per chi vuole notizie dalla TV, pace fatta, l'annunziata torna a Rai 3. Era tutto uno scherzo, insomma. Le accuse da parte di Lucia Annunziata, ci sono delle piccole mafie anche a Rai 3 nei confronti del direttore Paolo Ruffini, poi la risposta di Ruffini anche a questi microfoni, proprio lo stesso giorno disse qui a 24 mattino se ha detto questa parola mafia, ha detto una stupidata. Sta di fatto che insomma erano arrivati, erano volati stracci, l'annunziata, le dimissioni irrevocabili, eccetera, pace fatta. E si sono trovati a casa di Lucia Annunziata, Paolo Ruffini, Lucia Annunziata, hanno colloquiato 2 ore, pace fatta. La separazione era avvenuta dopo l'intervista e niente. Abbiamo scherzato, quindi ci sarà in mezz'ora e quindi tutto è ricomposto. Una notizia invece che riguarda che cosa? Il cinema, il TAR a 10 registi, restituite i soldi. Una pagina del Corriere, ma anche di Libero. Moretti ora paga, viene preso Moretti perché è uno dei 10 registi. La vicenda è questa, ci sono stati attribuiti nel 2005 dei premi a 10 registi. Si tratta di 250.000 euro a testa per vecchi premi dati dal Ministero dei Beni Culturali, uno però delle case di produzione, la casa di produzione Luna Rossa di Mauro Berardi, non aveva ottenuto questo premio, ha fatto causa e il TAR ha dato ragione in primo grado e quindi ha detto questi 10 registi che hanno preso 250.000 euro a testa dal Ministero dei Beni Culturali devono restituire questi soldi. Ora si vedrà, perché la sentenza ovviamente è appellabile. Vabbè, ci fermiamo qui. Ricordate che parliamo di calcio, ci sono tante paginate ovunque sulla questione calcio e lo scudetto del 2006 dell'Inter che la Juve dice ora va restituito. Vi chiediamo, va tolto all'Inter visto che sono emerse nuove intercettazioni, visto che il procuratore Palazzi ha detto anche l'Inter con Giacinto Facchetti e con relative polemiche, eh? C'era qualcosa che non andava. Insomma, intanto Gene Gnocchi oggi la vede così sul rompipallone sulla Gazzetta: Moratti mette le mani avanti per lo scudetto 2006. Non ricordo più dove l'ho messo.